Sensazioni mistiche, mistiche, danno sensazioni, sensazioni, non ti muovi, resti fermo, tipo Kurt Cobain, davanti a un teleschermo sei sconvolto, il tuo volto è ricoperto, del tuo sangue freddo, il cuore che non pulsa, pulsa, lì ti rendi conto che la tua vita è insulsa, non puoi uscirne vivo, non ti sei mai posto un traguardo, un obiettivo da raggiungere, cos'altro vuoi aggiungere ai tuoi giorni tristi, altri sorrisi finti, da forgere agli amici, per trarne benefici, credi tutti scemi, ma quello che ottieni sono solo altri problemi. Dalla faccia della terra vorresti sparire, perché vai a letto ma non riesci più a dormire, credevi di essere senza, ma ciò che ora ti tormenta è la presenza della tua coscienza. Solitudine, solo un limite, solitudine, strade ripide, solitudine, mente instabile, mentre ti nutri di un sogno irrealizzabile. Solitudine, solo un limite, solitudine, strade ripide, solitudine, mente instabile, mentre ti nutri irrealizzabile. Guardi nello specchio è come un déjà vu, fissi attentamente ma non sei più tu, come dice Manna, un viaggio verso giù, prendi la bottiglia e non ci pensi più, birra birra rum, ancora birra e rum, modalità di sfogo, vomito ergo sum, trattieni ciò che senti, scoppi e boom, ciò che sarà legato a ciò che fu, sono passati gli anni, tu sempre fermo, nulla cambia e nella testa è l'inferno, pensavi col tempo di migliorarti, ora ti addormenti sperando di non svegliarti, tra le mani solo spine senza rose, che poi se ci pensi ti accontenti anche di poco, con le mani trattieni le tue cose ma se ne vanno lasciandoti solo un vuoto. Solitudine, solo un limite, solitudine, strade ripide, solitudine, mente instabile, mentre ti nutri di un sogno irrealizzabile. Solitudine, solo un limite, solitudine, strade ripide, solitudine, mente instabile, mentre ti nutri di un sogno irrealizzabile. This.